Come stiamo? Bene, devo dire che siete bellissimi, meravigliosi. Grazie. Non so chi c'era, qualche settimana fa, forse un mesetto fa, ho avuto la possibilità di predicare di domenica mattina e ho parlato della, vediamo chi si ricorda, della parola, sì, della potenza che la nostra lingua ha, del peso importante che le nostre parole hanno in qualsiasi circostanza e a prescindere dal contesto in cui parliamo. Abbiamo parlato del fatto che Dio ha creato il mondo con la potenza della sua parola. E poi Gesù si è rivelato nel Nuovo Testamento come la parola che si è fatta carne. E abbiamo visto come noi, che siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, abbiamo ereditato questa potenza che sta nelle nostre parole. Certamente abbiamo detto che non possiamo creare realtà concrete, ma abbiamo visto come con le nostre parole possiamo certamente creare delle realtà emotive. Possiamo incoraggiare qualcuno o possiamo demolirlo. Possiamo creare delle realtà mentali, psicologiche. Possiamo con le nostre parole incoraggiare pensieri di vita, pensieri di speranza, pensieri positivi, oppure con la nostra stessa bocca possiamo incoraggiare pensieri di rigetto, di morte. Abbiamo visto che con le nostre parole possiamo creare delle realtà relazionali, è vero? Con quello che diciamo possiamo creare, possiamo nutrire, alimentare dei matrimoni sani, delle amicizie fiorenti, oppure possiamo fomentare liti, discordie, dispute. Vi ricordate? Abbiamo letto Giacomo 3 e abbiamo visto quanto Giacomo non si è risparmiato nel descrivere la nostra lingua come un qualcosa di veramente fondamentale da domare. È vero? Abbiamo visto come Giacomo paragona la nostra lingua come a un piccolo freno nella bocca del grande cavallo che blocca, condiziona il cavallo. Abbiamo visto come la lingua è paragonata a un timone, un piccolo timone che direziona una grande nave. Abbiamo visto come le parole sono paragonate da Giacomo a una scintilla, che però è in grado poi di incendiare un'intera foresta. Ci ricordiamo, ci siamo resi conto, io prego che in queste settimane lo Spirito Santo abbia continuato a parlare al nostro cuore di questo, abbia continuato a educare la nostra lingua, il nostro modo di parlare, perché possiamo fare delle bellissime cose, ma anche possiamo creare diversi danni. E quindi io oggi voglio continuare. Ok, a parlare di questa tematica, e questa sarà la seconda parte di una trilogia. Va bene? Vi ho incuriosito? Benissimo, meno male che nessuno si è alzato e se n'è andato, perché quello poteva anche succedere. Bene, la seconda parte, perché? Perché voglio continuare a parlare di questo? Sicuramente perché Gesù ha ispirato questo nel mio cuore, ma anche perché credo che sia un qualcosa di veramente cruciale. Quello che diciamo ha il peso di vita o di morte. Perché? Ed è particolare perché una volta che abbiamo proferito parola, buona o cattiva che sia, la cosa è che non la possiamo ritirare, non la possiamo prendere, non ce la possiamo mangiare da capo. Una volta che è uscita, è uscita. Quante volte Ci siamo ritrovati a dire qualcosa e nel secondo dopo a pensare, mamma mia, ma perché? Ma perché non imparo a stare zitta? Ma perché è uscita ancora una volta? Non ho saputo domare quello che esce dalla mia bocca. Magari abbiamo detto quella parola X, spinti dalla rabbia, spinti da un sentimento che non era positivo. Sì, tante volte però le parole escono perché spinte forse da leggerezza, è vero? Da superficialità, da... ma dai, è uno scherzo, è una battuta. E poi la diciamo, non la possiamo ritirare. E seppure si trattava di uno scherzo, di una battuta, di un qualcosa detta con leggerezza, con così, tanto per dire, quante volte diciamo così, vabbè, volevo solo dire qualcosa, quella parola può portare un frutto buono o può portare un frutto meno buono. Proverbi 12:18, oggi leggeremo tanti versetti, perché è meglio che parli la parola piuttosto che io. Scusa, il giro di parole, vabbè. Proverbi 12, al verso 18, c'è scritto, c'è chi, io, tu, noi, essi, parlando senza riflettere, trafigge come una spada. Parlando senza riflettere. È interessante, perché qui non si parla di parole che nascono da un cuore pieno di rancore, o di ferite, o di delusione, ma sono quelle parole dette, come ho detto prima, con impulsività, con un po' di sarcasmo, con un po' di leggerezza. E sapete, noi viviamo in una cultura che ha normalizzato il sarcasmo, è vero? Ha normalizzato la parola di troppo, ha normalizzato la battuta pungente. È normale, ma in fondo quello che spesso e volentieri ci ritroviamo a fare dietro quella battuta, dietro quello scherzo, è che forse abbiamo sminuito qualcuno, forse l'abbiamo messo da parte, forse l'abbiamo solo imbarazzato. Parole dette senza riflettere, senza pensare. Sono quelle parole che diciamo senza darci troppo peso. E alle volte la parola, la Bibbia dice che queste parole così leggere possono trafiggere come se fossero delle lame affilate. Quel commento, quella frase, quello scherzo, quella battuta, quel paragone, rimane lì. E noi andiamo avanti, cresciamo, magari non ci pensiamo più come forse ci pensavamo appena abbiamo sentito quella parola. Le stagioni passano, gli eventi succedono, però il frutto di quella parola detta senza riflettere è rimasto un po' tatuato nel nostro cuore, nella nostra mente, e in un modo o nell'altro ci continua a condizionare. Quando con mio marito stavamo cercando di avere Jacopo, e noi abbiamo aspettato, o comunque ci abbiamo provato per circa un anno. E lo so che non è tanto, però credetemi, quei 12 mesi, non lo so, li ho percepiti come 20.000 anni. Potete immaginare la sofferenza di quella stagione. E non so, forse è successo che in una delle prediche che ho avuto modo di condividere, ho parlato di questo. E subito dopo quell'incontro, quel messaggio, c'è stata una sorella che io sono certa, mi voleva incoraggiare, ne sono certa al 100%, mi voleva dire una cosa bella, mi voleva sollevare, voleva dimostrare la sua empatia dicendomi, vabbè, anche se non dovessi avere dei figli naturali, tanto c'hai quelli spirituali. Questa sorella mi voleva incoraggiare, io ne sono sicura, però quella frase è stata detta senza riflettere, senza pensarci due volte. E quella frase, detta con amore, io lo so, però in me ha creato, già ero piena di dubbi, paure, ne ha aggiunta una in più. E se il Signore veramente avesse deciso di darmi solo dei figli spirituali? Ora, se l'avesse deciso, mi avrebbe dato anche la grazia di accettarlo e di convivere con questa realtà, però non era quello il caso. Le parole senza riflettere. Ho indossato questo completo, ok? Tante persone mi hanno detto, Noemi, ma che bello, come ti sta bene, Sara? È in palette. Ok, benissimo. Una persona, Raffaele, lì, appena mi ha visto, ha detto, forza Bari, forza Bari, forza Bari. Le parole senza riflettere. Perché, salendo qui, qual è il commento che sta risuonando nella mia mente adesso? Non è la palette, è forza Bari. Ora, io non sono una che si offende, sono anche molto autoironica. Però se non lo fossi? Raffaele, comunque ti ho perdonato. Le parole senza riflettere sono dei semi piantati nei cuori di chi li ascolta che volente o nolente porteranno un frutto. E quindi la mia domanda per ognuno di noi è che cosa stiamo seminando? Quale frutto mangeremo o faremo mangiare a chi è il destinatario di queste nostre parole dette senza pensare. Un consiglio pratico. Attiviamo il filtro di Efesini 4. Efesini 4:29 dice: nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. In qualsiasi momento, nelle nostre conversazioni, quelle serie e quelle scherzose, quando parliamo con il nostro amico d'infanzia o quando parliamo con qualcuno che abbiamo appena conosciuto, quando siamo al lavoro, quando siamo in famiglia, quando siamo in chiesa, quando siamo al mercato a fare la spesa, chiediamoci, quello che sto per dire è buono? Incoraggia? È necessario? Dà amore? Questo è il filtro che noi possiamo, aiutati dallo Spirito Santo, applicare ad ogni conversazione che intavoliamo. Proverbi 16:24 dice: le parole soavi sono come un favo di miele, dolcezza dell'anima e medicina alle ossa. Facciamo in modo che le nostre parole, piuttosto che essere delle lame affilate che trafiggono, siano invece come miele, che danno dolcezza all'anima e che sono una medicina per le ossa. Amen? Quindi questo era Amen? Questa era la prima delle tre categorie di parole che, delle quali voglio parlare. Quindi la prima categoria sono le parole senza, che diciamo senza pensare, quelle parole leggere, quelle parole sarcastiche, quelle parole superficiali. La seconda categoria, voglio parlare di quelle parole che sono di pettegolezzo. Tutte quelle parole che diciamo quando parliamo male di qualcuno che non è presente nella conversazione. Quante volte l'abbiamo fatto? Non alziamo la mano. Gesù lo sa. E Gesù sa che tutti quanti l'abbiamo fatto. Tutti. Dal più piccolo al più grande. Dal più maturo nella fede a quello che ha conosciuto Gesù ieri. Tutti quanti. E quindi per tutti quanti c'è la possibilità di ravvedersi. Per tutti quanti c'è la possibilità di fare meglio. Lo Spirito Santo oggi non vuole condannare nessuno. Vuole riprendere tutti e aiutare tutti a fare meglio. Perché essere come Gesù passa da quello che noi diciamo. Ed essere come Gesù non ha niente a che vedere con parole di pettegolezzo, parole di gossip e parole di maldicenza. A tavola, quando quel parente non c'è, quali sono i commenti che escono su quel parente? A lavoro, quando quella collega ha preso da capo le ferie, ha preso da capo i giorni di malattia, che cosa esce dalla nostra bocca? In chiesa, alle spalle di quella sorella, di quel fratello, del capogruppo, dei pastori. Ora io so che noi siamo una chiesa che è piena di parole di incoraggiamento, di parole di grazia, di parole che sono buone, che conferiscono amore. Io lo so, perché siamo noi, ci caratterizza. E quindi questo prendiamolo come un avvertimento. Così che non appena sta per uscire la parola di pettegolezzo, ci possiamo ricordare che essere come Gesù passa da quello che la nostra bocca dice. E spesso noi ci giustifichiamo quando parliamo alle spalle di qualcuno male. Ci giustifichiamo dicendo, no, ma se Tizio fosse davanti a me, io gliele direi queste cose. Non c'è davanti a te. No, ma io queste cose gliele ho già dette a Caio. E allora, perché le stai ripetendo a qualcuno che non è il diretto destinatario di quelle parole, di quel commento, del fatto che è successo? Proverbi 16:24 dice: l'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce i migliori amici. La questione del pettegolezzo e del gossip, noi molto spesso, secondo me, la sottovalutiamo, perché quando pensiamo all'importanza delle nostre parole, pensiamo magari a quelle sentenze che possiamo mandare o a quelle parole proprio che feriscono, che le parole di pettegolezzo non le consideriamo poi così tanto importanti. E invece per Gesù sono importanti. Sapete, in Romani 1, quando Paolo fa proprio l'elenco di tutti i peccati che caratterizzavano coloro che non si sono curati di conoscere Dio, c'è l'omicidio, c'è la cupidigia, c'è l'ingiustizia, c'è la malvagità e c'è anche la maldicenza, cioè il parlare male, c'è anche la calunnia. Dio detesta il gossip, lo detesta. Non gli piace il pettegolezzo, perché queste parole dette alle spalle del diretto interessato provocano una cosa. Che cosa? Divisione. C'è scritto. Dove c'è scritto? Il maldicente disunisce gli amici migliori. Queste parole causano divisione nelle famiglie, nelle amicizie e anche nelle chiese. Come parliamo della nostra famiglia, dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri leader, dei nostri pastori, quando loro non ci sono? Quando non siamo d'accordo sulle decisioni che sono state prese? Che cosa esce dalla nostra bocca? Attenzione, è vero? Possiamo fare meglio o no? Il gossip, il pettegolezzo, è interessante, perché non ha solo a che vedere con quello che noi diciamo, ma, e ditemi se non è vero, ha a che vedere anche con quello che noi ascoltiamo. Che conversazioni ci piace ascoltare e sentire? Non è sufficiente dire, no, ma io non ho detto niente. Ho ascoltato però tutto il fatto, dall'inizio alla fine, facendo anche delle domande di approfondimento. Però io non ho detto niente. Come Giacomo, fratelli, così non va bene. Proverbi 17,4 dice, il malvagio... È bellissimo come proprio la Bibbia guarda per ogni esempio e per ogni scusa che noi ci possiamo porre alla verità. È incredibile, è bellissimo. Proverbi 17,4 dice, il malvagio dà ascolto alle labbra inique. Il gossip non si dice soltanto, ma si ascolta. Si ascolta. E allora ci voglio dare un consiglio, che è quello che io spesso cerco di fare. Quando succede che ci sono delle conversazioni dove si sta parlando o sparlando di qualcuno che non è presente, io alcune volte proprio dico, non voglio ascoltare questa conversazione, l'abbandono, abbandono la conversazione, cancello il gruppo. Però non è sempre possibile, perché poi anche quel diciamo approccio può creare ulteriori tensioni, eccetera. Allora, sapete che faccio? Se qualcuno, prendo David viene da me e incomincia a parlare male di Nathan, e mi dice, Nathan è così, è così, è così, mi ha fatto quello. Io sapete cosa faccio? Davvero? Invece secondo me Nathan è veramente così intelligente, così bravo, sempre attento, così bello. E lo incomincio a riempire di complimenti e di lode. Cosa pensate sarà di quella conversazione, di quel pettegolezzo e di quel parlare male? Si spegne. In quel momento si spegne. E in quel momento io che cosa sto facendo? Sto aiutando David a non parlare male più di Nathan. Sto dando un modello. Oltre che interrompere quella conversazione che porta dei frutti malvagi, che porta divisione. È chiaro? È difficile? No. Non sto dando proprio dei consigli altamente scientifici e teologici. È molto semplice, ma tutto dipende da quanto viviamo con lo Spirito Santo. Questo è. Perché amici, sorelle, fratelli, a noi ci piace pettegolare. A noi ci piace sapere i fatti. A noi piace essere coinvolti in quel tipo di... Perché? Perché è nella nostra natura peccaminosa. Quindi quello che può sembrare una situazione così quotidiana, spicciola, molto pratica, ha tanto dello spirituale. E vivere conversazioni sane, spegnere il pettegolezzo, spegnere le maldicenze, è un combattere una guerra spirituale. È un frenare quello che quei semi porteranno come frutto. Tante chiese si sono divise per un pettegolezzo, per una maldicenza, per delle parole dette senza riflettere. Tante famiglie soffrono tuttora per quello che la zia ha detto del cugino, eccetera, eccetera, eccetera. E lo viviamo. Noi possiamo fare meglio. Amen? Vogliamo fare meglio? Bene. Terza e ultima categoria. Le parole di lamentela. Le parole di critica. Critica e lamentela. Anche questo fatto a Dio sta a cuore. In Filippesi 2, al versetto 14, c'è scritto: fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Giacomo, il nostro amico Giacomo, 5:9, fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri. Cioè, ma che cosa vuoi commentare più quando leggi questi versetti? Che cosa c'è da aggiungere? Non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ora, avete presente quelle persone che in ogni stagione della vita hanno qualcosa da ridire? Ci avete presente? E mo fa troppo freddo, e mo fa troppo caldo, e la pasta ora era troppo salata e adesso invece è troppo insipida. Qui ho dovuto pensare a mio suocero. Se mi stai seguendo, papà, ti voglio bene, però la pasta che fa mamma è buona, sempre. L'incontro di chiesa, e la musica è troppo alta, e il predicatore è troppo prolisso, e il caffè al bar adesso è troppo corto, adesso è troppo lungo, adesso è troppo bruciato. Il gruppo in casa, e ci sono troppi bambini e non si capisce niente. I bambini sono parte della nostra famiglia, non li possiamo lasciare da nessuna parte, devono stare al gruppo. Amen. Le mamme dicono amen. E finisce troppo presto, e finisce troppo tardi, e non ho avuto modo di parlare. Oh mamma mia, che pesantezza vivere in questa maniera. Quanto è brutto stare con questo tipo di persone. E quanto è ancora più brutto quando questo tipo di persone siamo noi, che ci dobbiamo ascoltare. Basta! Hai pregato per quel lavoro. Tu hai pregato per quel lavoro. E ora ti stai lamentando che non guadagni abbastanza. Hai pregato per quel figlio. E ora ti stai lamentando che la maternità è troppo difficile. Hai pregato per quell'occasione, per quel master, per quella occasione lavorativa. E ora ti lamenti che ti devi preparare, che devi studiare. Hai pregato affinché trovassi un marito. E ora ti lamenti che respiri. Basta, basta. Hai pregato. E ora ti lamenti. E ora ci lamentiamo. Che figli ingrati che siamo certe volte. È vero? E io certe volte mi sento male per il Signore. Vi è mai capitato? Cioè io mi sento male mettendomi nei panni di Gesù, che ascolta, provvede, fa un miracolo, e spesso non lo ringraziamo neanche. Ma abbiamo da ridire. Fratelli, non deve essere così. Le tue parole, le nostre parole sono dei semi. E se noi parliamo in questo modo, che frutto ci aspettiamo? Che cosa vogliamo mangiare? Proverbi 12:14 dice: l'uomo sarà saziato di beni per il frutto della sua bocca. Proverbi 13:2 dice: dal frutto della sua bocca l'uomo mangerà ciò che è buono. Io capisco che c'è una correlazione tra la qualità della nostra vita e la qualità delle parole che diciamo a noi stessi e che diciamo agli altri. Allora io non voglio semplificare troppo, non è il mio intento, però se provi continua tristezza, se provi insoddisfazione, se provi invidia, se aggiungi tu, dai un'occhiata alle parole che dici, valuta, ascoltati, perché probabilmente la soluzione non sarà solo aggiustare il proprio modo di parlare, ma anche che frutto vogliamo mangiare. Il frutto che mangeremo dipenderà dalle parole che diremo, dai semi che stiamo piantando. Allora, davanti alla critica e al lamento, il consiglio pratico qual è? Ringrazia. Ringrazia. 1 Tessalonicesi 5:18 dice: in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi. Sii grato per quello che hai, per chi sei, per la tua famiglia, per il fatto che hai da mangiare tutti i giorni. Sii grato per la tua macchina, anche se è rotta e ne vorresti una migliore. Sii grato che ce l'hai. Sii grato per la tua chiesa. Certo, certo, tante cose potrebbero andare meglio. Tante cose potrebbero essere migliori. Ma certamente con la tua critica non aiuti. Mentre con il ringraziamento sì. Prenditi un attimo e vai a ringraziare i pastori, vai a ringraziare il tuo capogruppo, vai a ringraziare i tuoi genitori, vai a ringraziare i tuoi figli, ringrazia la tua insegnante. Perché così la nostra vita non sarà perfetta, però posso dire, sarà un attimino più bella, un attimino più leggera. Proverbi 12:18 dice, e qui voglio concludere, l'abbiamo letto, il primo versetto che abbiamo letto: c'è chi parlando senza riflettere trafigge come spada, però grazie a Dio c'è una continuazione, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Le nostre parole possono guarire. Le nostre parole possono dare vita, spronare, rialzare, incoraggiare, possono dare guarigione. C'è una potenza guaritrice immensa nel dire la parola giusta al momento giusto. E questo vuol dire che non devi dire sempre quello che pensi. Questa è stata la lezione, tante sono state le lezioni che il pastore Pinuccio mi ha dato, assai, ma questa è stata una molto importante. Il pastore Pinuccio mi dice sempre: puoi dire anche la cosa giusta, ma se la dici malamente, sentite la sua voce? E non la devi sempre dire. È così. È così. C'è una grande potenza guaritrice. Tu puoi guarire chi ti sta attorno. Puoi guarire tuo figlio, tua moglie, la tua collega solo con una parola giusta detta al momento giusto. Proverbi 15, 23. Quanto è buona una parola detta al tempo giusto. Alcuni di noi sono qui proprio perché qualcuno ha avuto una parola giusta che al momento giusto è entrata nel nostro cuore e ha portato il frutto della conversione. È incredibile. Qualcuno è qui ed è il genitore che è oggi perché qualcuno al momento giusto è venuto e ti ha detto: lo so che sei stanca, però stai facendo un ottimo lavoro, continua. Qualcuno è qui ed è un operaio onesto, bravo, perché qualcuno al momento giusto è venuto e ti ha detto: grazie per quello che fai, anche quando nessuno ti guarda. Continua, perché io ti prendo come esempio. Chissà il miracolo che c'è dietro questa parola giusta, detta al momento giusto, che è dolce come miele. Proverbi 25:11 dice: la parola detta al tempo giusto è come dei pomi d'oro su un vassoio d'argento. Queste parole sono un dono meraviglioso, un regalo che noi possiamo fare a noi stessi quando confessiamo le verità di Dio sulla nostra vita, quando confessiamo e ci ricordiamo delle promesse che Dio ci ha fatto. Sono dei doni meravigliosi che facciamo a noi stessi, ma sono anche dei doni bellissimi che possiamo fare all'altro. Quando io mi sento sopraffatta tra lavoro, studio, faccende domestiche, c'è mio marito che viene e mi dice: amore, sei una mamma bellissima, sei una mamma perfetta, amore, sono orgoglioso di te. Nella confusione, nel sentirmi sopraffatta, quelle parole sono parole giuste, dette al momento giusto, che mi portano tanta, tanta guarigione. E allora, quando pensiamo a come possiamo usare meglio le nostre parole, la preghiera che possiamo fare è molto semplice, Chiesa. Ogni giorno, prima di uscire, possiamo dire: Spirito Santo, buongiorno, aiutami. Aiutami a dire la cosa giusta, al momento giusto, alla persona giusta. Può essere un grazie. Può essere un grazie alla cassiera. O un sono orgogliosa di te a nostro figlio. O un ti amo a nostro marito, a nostra moglie. Quando è l'ultima volta che abbiamo detto alla persona che Dio ha messo al nostro fianco e alla quale dedichiamo la nostra fedeltà da ora per l'eternità? Quando è l'ultima volta che abbiamo detto ti amo? Dietro le lamentele di tua moglie forse c'è un bisogno di sentirsi dire che la ami. Dietro i silenzi di tuo marito forse c'è un bisogno di sentire che lo ami, che lo rispetti e che lo affermi come tuo marito. Spirito Santo, aiutami ogni mattina a vedere oltre quello che è il visibile. E Spirito Santo, aiutami a dire la parola giusta al momento giusto. Aiutami a dire, invece di una lamentela, una parola di lode. Invece di una critica, un ringraziamento. Invece di un pettegolezzo, una parola di chiarimento. Invece di una battuta sarcastica, una parola di amore, una parola di pace. Spirito Santo, aiutami. Questa è una preghiera semplice, ma dal profondo impatto. È una preghiera alla portata di tutti. Non ci sono preghiere che non sono alla portata, ma il cui frutto può cambiare relazioni, famiglie, chiese e la società intera. Essere come Gesù passa anche dalla nostra lingua. E noi abbiamo lo Spirito Santo che dentro di noi ci può dare l'autocontrollo di scegliere quando dire e quando stare zitta, cosa dire e come dirlo. Non siamo da soli, coinvolgiamolo. Alla base ci deve essere una volontà. Chi vuole con me prendere questo impegno di fare questa preghiera ogni mattina? Signore, aiutami a dire la cosa giusta alla persona giusta, al momento giusto. Io lo voglio fare. E tu? Lo vuoi fare? Ci alziamo? E prendi il tuo impegno con Gesù. Io il mio l'ho preso e lo confermo in questo momento. Però prendi il tuo impegno con Gesù e digli: Signore, perdonami per le parole sarcastiche che ho detto, le maldicenze che ho detto, i gossip che ho ascoltato, perdonami. Non voglio che questo faccia più parte della mia vita. Aiutami a dire ciò che ti riflette, a dire ciò che è giusto, a dimostrare affetto, amore a chi mi sta vicino, a partire da mia moglie e mio marito. Amen. Preghiamo, fai la tua preghiera.